realtà. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. È mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Dunque, avete chiesto il congresso? Venite, andiamo a fare un bel congresso con il sorriso sulle labbra e con l'entusiasmo di chi sa che da questo congresso il Partito Democratico sarà un partito ancora più democratico. Credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità accettare l'invito a fare il congresso prima delle elezioni. Io non voglio scissione, e se scissione deve essere, ma io spero di no, che sia una scissione senza alibi, certo non con l'alibi del calendario. Si chiude dunque un ciclo alla guida del Partito Democratico. Io sono segretario del PD dal 15 dicembre del 2013. Ho preso un PD che aveva il 25% di voti e nell'unica consultazione politica nazionale lo abbiamo portato al 40,8. Allora, se diciamo congresso, mi chiedo, stiamo dicendo questo? No, perché se non andiamo un po' in profondità, perdiamo l'ultimo treno, ragazzi, credete a me. Allora, non facciamo cose cotte e mangiate, per favore, che diventano delle conte. Sarò tra i candidati alla segreteria, è una cosa che a questo punto sarà necessario, io sento di fare. Stai rifacendo la stessa faccia che facevi mentre parlava Bersani. Ti prego, fammi le facce che fai con gli altri, ti prego. Renzi, Bersani, Emiliano, la saga telenovela del PD, puntata numero 4765, è andata in onda ieri con il titolo "È quasi scissione". È quasi scissione. Quasi. Come mi sono divertito. Lo so, De Luca si è divertito alla grandissima. Ieri non poteva condurre qui 24 mattino De Luca perché era in procinto di esibirsi lì alla direzione del PD, e anche lì De Luca ha regalato con l'ossessione Movimento 5 Stelle. Quell'eminente webmaster dei 5 Stelle che, reduce dalla sua battaglia contro la storia, geografia e ultimamente contro la grammatica, si è riproposto, diciamo, all'attenzione dell'opinione pubblica come possibile guida dell'Italia, carico ovviamente della nuova gloria acquisita nel governo di Roma Capitale, dove sono state introdotte, come abbiamo visto, forti novità politiche, dalle accettazione delle dimissioni con riserva alle polizze al milite ignoto, diciamo. Ma... De Luca, le polizze al milite ignoto non è male, le polizze al milite ignoto non è male. Saluto Dieng da Paese Treviso, ogni giorno puntuale, grande Dieng da quel paese chiamato Paese Treviso. Saluto anche Andrea da una affollatissima Autolaghi, cioè lui, noi siamo qua, tranquilli. Saluto anche Rosanna da Porto Gruaro, Giorgio da Roma che mi dice ciao con la vecchia tecnica. Ciao, mi saluti in diretta? Va bene, Giorgio, guarda, ti faccio salutare anche da Veronica Gentili. Fai un po' te, Giorgio. Veronica. Cara Veronica, devi spontaneamente, senza grande richiesta buongiorno, mia. Buongiorno, caro Giorgio, volevo salutarti. È San Valentino, quindi sì, un po' più... La nostra buongiorno. Veronica è single o no? È single o no? Oggi e pedina. Quando chiederselo se non nel giorno di San Valentino, brava, no? Brava, brava. Vuoi dire qualcosa a Giorgio nel giorno di San Valentino, così sua moglie o sua figlia? Caro Giorgio, che questa giornata sia sua dente, va bene? Va bene. No, potevo fare di più. No, ma per carità, non mi permetto di... Vabbè. No, potevo essere così, un po' più voce friendly, però comunque okay. L'ora è quella, capisci? Certo. Il livello di amichevolezza comunque non supera, no? No, chiaro. Il più grande esperto, la più grande esperta di direzione del PD, Veronica Gentili, non se ne perde una. Tu dicevi che De Luca era l'unico contento, ma ci sono anch'io di contenta a guardare la direzione del PD, no? Sì, infatti, ma lui è contento. Che ieri è stata tosta anche per me, eh? È stata tosta? Ma è stata bella? Da 0 a 10, divertente, quanto? No, poca roba. Diciamo 5,5, dai. Io ho notato una cosa, tra l'altro. C'era... Voglio intanto salutare il nostro compagno di viaggio, È tornato, eccolo qua. Il nostro Fedez preferito, Federico Novella. Buongiorno. Ben ritrovati. Come stai? Tutto a posto. Allora, una premessa, scusami, mi sembra doverosa e d'obbligo. Tu hai pensato di ricongiungere questo trio per San Valentino, quindi io te ne sono riconoscente. La domanda politica del giorno è: c'è stata la scissione tra Veronica e il suo fidanzato? Parleremo di questo questa mattina. Federico è molto interessato, non lo so. No, è un'attenzione giornalistica. No, certo, interessato, perché per aprirci il TG4 oggi. No, io pensavo a Giorgio di Portogruaro lì. Giorgio di Roma, Rosanna è di Portogruaro. Hai fatto una crasi. Per la precisione. Sei disattento, così non arriviamo da nessuna parte, Fede. Ecco. Va bene, ma abbiamo poi un ci po chiedono, di te, ci chiedono, ci chiedono anche questo. Veronica è della Lazio o della Roma? Non gli frega più di tanto. Diciamo che una che ti ha sbagliato la città dell'Atalanta, insomma, lasciatela stessa. Sì. No? Ricordate che ci sono degli straordinari quiz di calcio che si possono fare a Veronica Gentili. No, tipo dopo l'Atalanta ci potrai dire di che città è la Sampdoria. La Sampdoria è Genova, ma per il Viperetta, per il Viperetta, altrimenti non lo saprei. E la SPAL. Dai, ma che ne so io, la SPAL sta sotto il collo. La SPAL di Ferrara, esatto, la SPAL di Ferrara, va bene tutto. Allora, io ho notato una cosa aprendo il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Abbiamo avuto una direzione, confermami se sbaglio, Veronica, con un premier muto, lì, muto, al banco, muto. Confermi. Il ministro dell'economia in platea obbligato a intervenire, muto. Confermiamo. Presente, lì. Cioè, ma chi è il capo del governo? Mi è venuta una curiosità. Chi è che governa? Allora, in questo momento la situazione, secondo me, sintetizzata è così. Sì. C'è un PD che non è capace di dire se ha intenzione o meno di staccare la spina a un governo del PD. Che detta così non è niente male, eh? Non è male. E intanto come si suol dire in Europa, il PIL, caro Federico Novella, va vuma alle stelle, diciamo. Sì, che è l'unica cosa di cui non si è parlato ieri, perché ieri siamo tornati alla vecchia seduta psicanalitica del PD, in cui tutti si odiano. L'unica certezza è che questi qua si odiano proprio a livello personale. Si odiano, ma non dice, sai, a livello un po' così astratto. No, si prenderebbero sotto con la macchina se si potessero. È vero, ieri era così, il clima era veramente questo. Allora, retroscena. A cercare di conciliare gli animi. Ieri era veramente scontro proprio di personale con un detestarsi il momento. L'ACME è stato il momento di Emiliano. in cui veramente proprio rischiavano proprio di volare gli stracci. Milano è stato durissimo, sì, anche giustamente, ma con il clima e correnti che sghignazzava mentre Emiliano parlava, gli urli da stadio sotto dei renziani che non lo lasciavano finire. Un po' così. Infatti Renzi, retroscena, li seppelliremo con le regole. Bersani, retroscena, ha schiacciato il pulsante di autodistruzione del PD. Beh, quando arriverà questa scissione, Federico? Dai. Secondo me prima o poi arriverà. Certo, come nella schiava Isaura, prima o poi, ricordate, succede che la schiava Isaura, nota telenovela. Ma sì, perché poi alla fine... Tantissime citazioni sciocchine. La vedi quando stiri? No, vabbè, è uno... Oggi sei veramente altissimo. La vedi quando stiri. Tu sei stato più forte di me. Tu mi citi la telenovela. No, ma va bene. Federico, vai avanti. Fai finta che non ci sia. Vai avanti. Ti lascio stirare. Senti, no, ma chiaro che ieri in qualche modo Renzi è stato già commissariato. In qualche modo, cioè il Renzi delle slide, della super velocità. No, e quello forse ce lo dobbiamo dimenticare, per lasciare spazio a chi non lo so, perché resta comunque l'unico spendibile all'interno di quel partito lì. Sì, perché c'è da dire. Chi fai governare? Orlando? Non lo so. Adesso vediamo l'accusa, non so, di giornali, ovviamente giornali orientati a destra, come Il Giornale, eccetera. Ci tiene in ostaggio, o meglio, tiene in ostaggio l'Italia, nel senso che c'è un governo che governa, e questa è la domanda che faccio, c'è un governo che deve fare delle cose, ripeto, l'Europa ce l'ha detto, ieri previsioni della Commissione Europea, siamo fanalino di coda nella crescita del PIL, 0,9, eccetera, fanalino di coda europeo. Allora, lo so. E invece... Però la premessa era questa, infatti, quando c'è un governo del PD che non si sa se staccherà il PD staccherà la spina al suo governo o meno, significa che Renzi non riesce a parlare con chiarezza su questo. Cioè lui non ha detto, per una serie di ragioni, secondo me, tra cui la prima, che lui non sa se la sua maggioranza è disponibile a seguirlo su un eventuale congresso anticipato con elezioni, perché poi anche loro hanno paura, quindi non si capiscono i tempi. Quindi continua a traccheggiare, a tenerli tutti lì a marinare, tiene tutti bloccati, e anche con Padoan, con cui ha fatto un atto puramente formale nel farlo andare lì, perché poi, parliamoci chiaro, la cosa che hanno fatto del raccogliere le firme i 32 renziani, no? I 32 deputati renziani per chiedere che non vengano alzate le tasse, è quella mossa che tutti quanti avevamo previsto da tempo, cioè metto lì il governo Gentiloni a governare, è in continuità a me, gli metto tutte le persone, faccio quello che è, ma poi in parte fingo di essere quasi all'opposizione. In tutto questo io dico una cosa, sia chiaro, l'ho anche scritto su Twitter, la colpa non è del Partito Democratico che discute, facciano le direzioni, è giusto, discutano, se affilino i coltelli politicamente parlando, eccetera, la colpa è nostra. La colpa è di noi giornalisti che gli diamo le prime 10 pagine dei giornali, signori. Questa è una delle nostre tante colpe. Questa è la colpa è nostra, della nostra categoria, non tutti i giornali, per carità. Ma è così. È il partito di governo, di fatto. Si potrebbe dedicare mezza pagina a questo, due pagine, tre. Ho visto rovistare in notizie molto peggiori e molto meno rilevanti, quindi in questo caso mi dirai che siamo un po'... Ma anche oggi noi tutti i giornali dovrebbero aprire col fatto che il PIL siamo arranchiamo e vediamo quali sono le soluzioni, perché, per come, e poi a pagina 12 due pagine su bene, che succede in politica? Il PD discute la direzione nazionale. Ma questo dovrebbe essere in un paese normale, no? Considera però sempre che nell'immaginario collettivo, come il PIL, tutte le problematiche reali economiche legate all'Europa sono più complesse, anche per richiedono un'attenzione diversa, mentre questa è comunque una telenovela. Ultimamente è più complesso Emiliano contro Renzi, contro D'Alema. Ma poi voglio dire, è più facile. Sono è più facile. Però se torniamo all'odio, capito? All'odio basico, tutto sommato, lì si capisce. Guarda, io dico solo una cosa. Ci sarà tra la democrazia online di Grillo e il tutti contro tutti che abbiamo visto ieri del PD, ci sarà una via di mezzo nella politica italiana? Ci sarà una via di mezzo o no? Sì, ci sarà una via di mezzo. Dobbiamo trovare, però c'è, ci sarà, non lo so. E come no, come anche succede a Roma, questa di... no, perché anche noi qua stiamo parlando mica del PIL che non cresce, beh, perché, anche perché abbiamo due grandi esperti economisti come Federico Novella e Veronica Gentili, potremmo affrontare. Cioè, non solo ci hai fatto svegliare a quest'ora, ci metti pure a parlare del PIL a noi, così altro. Due Brunetta mancati, due premi Nobel dell'economia mancati qua. Veronica Veramente Gentili. Eravamo stati consultati entrambi per cercare adesso di sanare i bilanci dello Stato, però Federico ha ritenuto che non fosse il caso che noi ci imbarcassimo in questo Esatto. Come tra l'altro, no, senza scadenze precise noi non lavoriamo, quindi già che non ci dicono quando finisce la legislatura, noi non siamo persone serie noi, esatto. Come tra l'altro, signori, l'altra questione, Roma continuamente sui giornali, ma mica per le cose da fare, mica per la monnezza. Qui abbiamo una grande amica del Movimento 5 Stelle, una grande cittadina di Roma, anche se non si è ancora capito se è romana o laziale. Ma la sei più romana o laziale? La descrizione. No, non lo posso dire perché questo mi causerà molti problemi. Enormi problemi. Sei democristiana. Mamma ecco mia, democristiana sul calcio, cioè comunista nella vita, democristiana sul calcio. Vabbè, no, perché la fede la difendo. Ma una volta l'hai anche detto. Sì, comunque più laziale. Ma sei detto che tuo papà ti portava allo stadio a vedere i ragazzi. Sì, infatti più laziale. Più laziale. Oh. Guarda, Giorgio da Porto Gruaro dovrà farsene una ragione. Ancora, un non è da Porto Gruaro, è da Roma. Sì, ma c'ha qualche parente a Porto Gruaro. Giorgio è di Roma, è Rosanna che è di Porto Gruaro. Ma cazzo, è stato così in vacanza una volta, ci sarà stato a Porto Gruaro. Ma non Gruaro, lo so, magari sta con Rosanna di Porto Gruaro, Giorgio da Roma, non lo sappiamo neanche. Può nascere qualcosa, chi lo sa? Non lo sappiamo. Sei così fiscale, sciocchina, lui lo sposta a Porto Gruaro, lui lo fa a Polite, Giorgio, no? Siamo a quattro. In tutto questo, sai quanto è finita ieri quindi Lazio-Milan? Sai che ieri c'era Lazio-Milan? Oh mamma mia, ragazzi. Ecco perché papà mi stava così storto, perché la Lazio non avrà sicuro vinto col Milan. No. Ha però pareggiato il Milan a pochi minuti dalla fine. Ah, però stava per vincere, vedi? Lo so. Quindi sarà ancora più incazzato. Perché sarà incazzato nero, papà, però abbi pazienza. Io non posso vedere la direzione del PD, vedere Emiliano e Renzi che litiga, veramente, per veramente della partita di calcio. Veramente, no, era ieri sera la partita di calcio. Cosa facevi? Vabbè, dov'era lei? Con chi eri? Il detective, con chi eri? Una domanda. Ieri sera cucinavo, ho fatto la pizza. Per chi? Però non posso dirlo perché poi così sembro la Lussana, capito? Quindi non vorrei, no? No, togliere prima che... La Lussana sappiamo tutto, con chi sta, è sposata, ha una figlia. Ma che sottofondo musicale hanno messo? È la Pantera Rosa. Sono dei geni anche loro, però. Sì, beh, no, sto Peter Pescapè. Non mi sottovalutare. Stai eludendo mai la domanda, dai, prima del traffico, su, si dai, dacci un indizio. Dacci un indizio prima del traffico. Dai, non fare il Bersani, non te lo ricordo, chiaro, non te lo ricordo. Non saprei che cosa ti ho detto l'ultima volta. Era semplice la domanda: a chi cucinavi la pizza? Era semplice, no, semplice. Mangio sola la pizza. Ma come mangio sola la pizza? Ti cucini la pizza da sola? Ragazzi, devo tenere il punto adesso. Ho capito tutto. È una ragazza da sposare. Ho capito sposare. Tutto, è fidanzata, ho capito tutto. Ho capito, da questa risposta si è capito, signori, è fidanzata. Andiamo al traffico. Ragazzi, ma cosa traffico, dite? Traffico. Scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. Niente, sei impallato il sistema. Che succede? Attenzione, Federico Novella. Mi guarda Peter Pescapè e mi dice: si è impallato il sistema. Fantastico. Houston, abbiamo un problema. Si è impallato. Stiamo per autoesplodere. Appena ho detto che è fidanzata Veronica Gentili, stiamo per autoesplodere. Vabbè. Ha pure impallato il sistema, ma anche il sistema vuole sapere cosa sono ha fatto single, ieri Veronica. Ragazzi, sono single, solissima. Ieri ho fatto la pizza per degli amici. Allora, tu ti assumi il... Ma perché ho l'impressione che tu stia inventando. No, alle 6:46 tu... aspetta, no? Aspetta, alle 6:47 minuti ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo. No, è chiaro che sono no. Parole gravi, sono parole pesanti. Mente. Ogni parola deve avere un suo peso specifico, altrimenti poi mi ritrovo come Renzi, che non lasci la politica e poi resti ancora lì. No, io non posso assolutamente dichiarare. Vabbè, abbiamo ripristinato il traffico. Strade in diretta. Buongiorno a voi tutti, segnalo che a causa del protrarsi della chiusura per lavori del nodo tra la A24 Roma Teramo e la tangenziale est di Roma per i veicoli provenienti dal grande raccordo anulare diretti verso la via Salaria, si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro, rallentamenti per materiali dispersi invece sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. A Milano traffico sostenuto sul tratto urbano della A4 in entrambe le direzioni e code sulla tangenziale est tra l'allacciamento con la tangenziale nord e Lambrate Segrate verso Bologna. Buon viaggio. Signor Milo, di la verità, ma Salvini è l'unico che tiene le idee chiare, che se va a governare fa come a Trump, amico mio, glielo promette e poi mantiene la promessa. Ha detto che ha fatto lo stesso titolo anche per Rubio Berlusconi. Certo che paragonare la Raggi a Rubi fanno bene gli italiani a non comprare più giornali, non dovrebbero comprare più neanche uno, perché in Italia il giornalismo è andato, caro Milan, ciao. Milan, ma che ce frega se la Gentile è fidanzata, sì, oppure no? Ma smettila, dai, l'unico che interessa è a te. Guardi, io le dico una cosa, qui continuo a leggere interviste e dichiarazioni. No. Sinceramente non so dove trovi il tempo, perché c'è da lavorare e c'è da lavorare tanto. Noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti, per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza, soprattutto quella delle persone, è un limite. E vabbè, Virginia Raggi contro l'assessore Bernini, Interessa, non è vero che interessa solo a me, per esempio, se è fidanzata Veronica Gentili, interessa moltissimo anche a Federico Novella. Ecco, già siamo in due. Siamo già due. In poche persone in più si fa un partito. Tutti Italia, i grandi gruppi cominciano così, esatto. Siamo già una corrente del PD. Esatto. Ecco. No, siete molto più numerosi di una corrente del PD, non esatto. Scherziamo. Roma, cara Veronica. Hai sentito la tua sindaca? Te la devo chiamare così, sindaca? L'ho sentita, la mia sindaca. Beh, diciamo che questa volta la situazione Bernini è un po' incresciosa. Nel senso Bernini, che siamo... ma perché io lo stimo così tanto? Perché non si dimette? Io non lo capisco. Bernini, non lo so nemmeno io, guarda, perché non lo capisco, non lo capisco. Non si dimette, io credo, perché evidentemente un po' ci crede, lui crede di poter far bene, lui è preoccupato per questa storia dello stadio e pensa comunque, evidentemente, anche se ha mostrato su alcune cose un po' di essere, non lo so, un po' naif e un po' anche che sta facendo un gioco così doppio, perché poi comunque queste cose lui le ha dette, voleva che uscissero. Lo scopo onestamente non lo capisco nemmeno io, perché nel momento in cui decidi di rimanere su una barca, in qualunque caso cerchi di evitare di farla affondare, perlomeno di collaborare tu a farla affondare, sì. Però senza avesse indebolire ulteriormente una sindaca che è già insomma minata in partenza, proprio non l'ho capito. Poi penso che Bernini possa fare bene, nel senso che sulla cementificazione, sul combatterla strenuamente. Sì, ormai che può fare? Federico, ormai che può fare? Niente. Non lo so. Hai certo sentito quando il sindaco dice la pazienza ha un limite? Dove trova anche il tempo? La pazienza dei romani ha un limite che secondo me è già stato ampiamente superato. Ma quella è finito. Anche perché se c'è un vantaggio a fare il sindaco è che tu puoi licenziare gli assessori, a differenza di quanto il premier possa fare con i ministri. Sì. Allora uno si aspetta che si prenda una decisione. Sostituisci l'assessore oppure ti prendi le però deleghe. Però la differenza è che lei non è nella condizione di sostituire assessori con leggerezza. Ma perché che fai poi l'urbanista, il piano urbanistico, cioè esatto, capito, però tu lo accetti le dimissioni con riserva, che non si è ancora capito che cosa vuol dire. A noi sconosciuta. Continui a traccheggiare ormai per una settimana e questo è un segnale dell'incapacità di decidere. Vabbè, ma lì è chiaro che traccheggia perché cioè, via uno devi mettere un altro assessore, soprattutto su un tema così delicato. Un assessore, eccetera. Esatto, un assessore eccetera. Autorevole, perché comunque i due temi, gli unici veri temi che prescindessero dalla sindaca sì. sono stati le Olimpiadi e lo stadio. Quindi, ho capito, ragazzi, si sceglie il Papa in 5 giorni, non riescono a trovare un assessore. Non dire questo, che per trovare l'assessore al bilancio praticamente abbiamo dovuto convocare la NATO. Sentite come parla, abbiamo dovuto convocare noi del Movimento 5 Stelle, perché parla così poi Veronica Gentile. Sì. Abbiamo dovuto convocare. Essere tutto. Allora, esatto, sì, infatti chiede un ascoltatore. Single, comunista, laziale, altri difetti? Non lo so, di che segno sei, Veronica? Non lo so. Questo ve lo posso dire, sono del Cancro. Oh, quindi io non so mai collocare. Quindi sei nata? Il 9 luglio. Il 9 luglio, bellissimo. Ebbene, così, bellissimo, mi piace già, il 9 luglio. No, visto quando posso rispondere a una domanda, visto come sono duro. Poi rispondo. In tutto questo, signori, voi nicchiate. Qua il Partito Democratico, Roma, il PIL, ma c'è la notizia del giorno. Sono sulla Verità. Luca Telese, che fa un'anticipazione del suo nuovo programma Bianco e Nero. Signori, prendi nota, cara Veronica, anche Vai. Tu, cara. Avete il caso Bossetti? Ricordate che è stato incastrato perché si è scoperto che la mamma ha avuto una relazione con un guidatore di autobus, il Guerinoni. Ricordate tutta la vicenda, il DNA? Noi fingeremo di ricordarlo. Ricordate che c'è tutta la vicenda, il caso Iara, insomma, per cui hanno fatto sì, tutto. Sta arrivando la bomba. L'accusa shock della mamma di Bossetti è questa. Prendete nota, perché la lista si allunga. Sono stata inseminata a mia insaputa. Questo è una cosa. Attenzione. Questo succede di frequente. Il ginecologo che mi aveva in cura per l'infertilità ha inserito a mia insaputa lo sperma di Guerinoni senza dirmelo. Ma io con quella non ci sono mai andata, però. Cosa ridi? Non ci sono mai andata. Ma Guerinoni dovrebbe essere quindi il padre, esatto, sempre della fiction, esatto, quella che vedi tu quando spiri. No. Il padre, ma dai, sconosciuto. Sì, il famoso ignoto. Ma ora, grande colpo di scena, dice: mi hanno inserito lo sperma a mia insaputa, e quindi non. Questa gliel'ha consigliata Scaiola, sicuro. No. Questo, sì, anche secondo me. Sicuramente questo, proprio. Non lo so. Consigliori della signora è sicuramente Scaiola. Questa mi sembra un'ottima osservazione. Comunque, voglio concludere un indizio per Veronica Gentili. Continua la nostra ricerca. Le affinità in amore con il Cancro sono i pesci. Con i pesci potrebbe trovare la sua pace. Anche se poca iniziativa, i pesci, hai bisogno di trovare un pesci. Questo chi ce l'ha detto? Hai consultato? Non lo so, Lorenzo Nespoli me lo scrive. E io, un buon partner potrebbe essere lo scorpione, più carico di energia e passionale. Anche buoni rapporti con un gemelli. Peter Bescapè e gemelli, ti fa notare. Sua moglie sarà molto contenta di ascoltare questa telefonata in diretta. Le farà estremamente piacere. E anche con una bilancia, insomma, con tutti. Ma guarda, se me ne dici altri tre, abbiamo coperto lo zodiaco. No, devi però evitare il Capricorno. Federico, tu che segno sei? No, io sono vergine, ma io penso che faremo dei provini a questo punto, non credo io, faremo dei provini, faremo il reality, dai, vi devo salutare Veronica Gentile, non ci lasciare, buon San Valentino, grazie, miei adorati, grazie anche ciao a te, ragazzi, ciao. Anche a te, al tuo fidanzato, anche grazie, a te, al tuo fidanzato, grazie. Ciao, guarda come tenta fino alla fine, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità, pensa Unica. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti in punto in questo momento qui a Radio 24, è lo spazio dedicato alla rassegna stampa, siamo alla lettura dei quotidiani che sono dedicati soprattutto a due importanti notizie, le più importanti, e cioè il congresso del PD da una parte e l'Italia che arranca per quel che riguarda l'economia, così sancisce l'Unione Europea. Andiamo a sfogliarli! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 14 febbraio il Sole 24 Ore apre su l'Europa. L'Europa riparte, l'Italia arranca. Sono le previsioni dell'Unione Europea sulla crescita europea, più 1,6% nel 2017, più 1,8% nel 2018, mentre il PIL fermo in Italia, più 0,9% nel 2017. Pesano debito pubblico e politica. Il congresso del PD, rischio scissione, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Renzi subito il congresso PD, la minoranza scissione più vicina. La Stampa, PD vince Renzi ma scissione più vicina. Il Giornale, odio i ricatti, il PD è morto. Per il Messaggero, PD a congresso, voto più lontano. Il Fatto Quotidiano torna sul PIL. L'Italia è ultima in Europa, ma Renzi pensa alla poltrona. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Giorno, Renzi rilancia PD nel caos. La Verità, Renzi si diverte a spese nostre. Libero, Renzi va e minaccia di tornare. Come vedete, la maggior parte dei titoli sono su questo. L'Unità, c'è vita nel PD e anche interessante. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Manifesto, smetto quando voglio, e c'è una foto di Renzi. Si distingue Avvenire, via da Trump a nord sono i migranti che vanno verso il Canada per evitare le espulsioni negli Stati Uniti. Ma come vedete le notizie e le prime pagine sono catalizzate soprattutto dalla vicenda del PD, oltre che dall'Unione Europea che sancisce l'Italia, arranca dal punto di vista dell'economia. Queste, come detto, le prime due e più importanti notizie. Voglio leggere però qualcosa di diverso, partire da qui, come dal furto del secolo, così è già stato definito, il colpo dei ladri acrobati, un qualcosa che fa mettere sulle pagine dei giornali la foto di Tom Cruise in Mission Impossible. Succede che a Londra, come raccontano tutti i giornali, leggo da Cristina Marconi sul Messaggero, ma c'è una pagina sul Fatto Quotidiano, un po' ovunque, alcuni ladri acrobati, tre per la precisione, si sono calati con 13 metri di corde dai lucernari di vetro di un deposito di libri antichi e preziosi e, muovendosi sinuosi come gatti per evitare il sistema d'allarme, hanno portato via 160 libri antichissimi per un valore totale di più di 2 milioni di sterline. Poi sono spariti nel nulla, insieme a opere di grande pregio come un'edizione del 1566 di Copernico che contiene la teoria del sole al centro dell'universo, da sola vale 250.000 euro, una Divina Commedia del 1569, volumi di Galilei, Isaac Newton, Leonardo da Vinci. Ora Scotland Yard è alla ricerca di questa banda di ladri. Tra l'altro si pensa a un furto su commissione, perché non è facile piazzare un Copernico del 1566 così. Si pensa a un furto su commissione, un furto senza precedenti nella notte tra il 29 e il 30 gennaio a Feltham, a ovest di Londra, di cui si è saputo però solo ora. E dice Scotland Yard, ci deve essere un collezionista dietro, visto che i libri appartengono a tre mercanti diversi che lavorano nella fascia più alta del mercato e da soli rappresentano una collezione fantastica. Il furto del secolo. A proposito di ladri, qui non c'entrano furti del secolo. L'iniziativa raccontata da Libero, Alessandro Gonzato a pagina 17, di una catena di supermercati padovani, l'azienda e i supermercati Ali, che hanno deciso, dopo i numerosi furti quotidiani che avvengono nei supermercati, dopo aver visto che i colpevoli di fatto sono subito liberi, hanno deciso una sorta di gogna pubblica. Hanno preso le immagini delle camere di sorveglianza, hanno fatto dei cartelloni, come dei cartelloni pubblicitari, hanno affisso queste facce, queste foto, come dire, eccoli qui i ladri, all'ingresso dei loro supermercati. La gogna al supermercato, esposte le foto dei ladri. Furti quotidiani, colpevoli subito liberi, ecco l'iniziativa della catena lì, cartelloni con le immagini dei mariuoli davanti ai punti vendita, come hanno già fatto a New York. Scrive Alessandro Gonzato su Libero, la direzione ha deciso di esporre al pubblico ludibrio i ladri dopo aver subito una serie di taccheggi, tutti nello stesso giorno nel Ferrarese a Padova e altri 3 tentativi di furto il giorno seguente. Protagoniste sempre le stesse 2 persone, un uomo e una donna, che si infilavano la merce sotto i cappotti o nelle borse. Ed ecco, a lui arriva la gogna pubblica per i ladri. Vabbè, saltiamo sul Fatto Quotidiano, che racconta una storia legata ad Agrigento, tema quello dell'abusivismo che spesso seguiamo, approfondiamo anche qui. Succede ad Agrigento, lo racconta Giuseppe Lo Bianco in prima pagina del Fatto Quotidiano, sotto il titolo Agrigento scatta l'ora illegale. Allora, intanto, un paradosso nella città dei templi: la raccolta differenziata che praticamente si è azzerata, era più del 20% nel 2009, oggi è all'8%. Tutto ciò nonostante l'assessore con delega ai rifiuti sia membro della segreteria nazionale di Legambiente, si chiama Mimmo Fontana. Ma c'è un'altra notizia che si aggiunge. Il comune, scrive il Fatto Quotidiano, ha appena rilasciato una concessione edilizia per nuove costruzioni in via Gioeni, dove il 19 luglio del 66 una frana distrusse mezza città. Ed eccolo qui poi l'approfondimento a pagina 13. Una concessione edilizia in una via protetta da decenni nel piano regolatore da un vincolo idrogeologico di inedificabilità assoluta per la frana che 50 anni fa travolse la città dei templi. Un quarto della città di Agrigento è crollata, disse allora il deputato del Partito Comunista Pio La Torre alla Camera. 8.000 cittadini da un giorno all'altro senza casa hanno perduto tutto, gli artigiani, le loro botteghe, i commercianti, i loro negozi, gli operai, il loro lavoro. Su quei terreni, ha denunciato in un esposto l'avvocato ambientalista Giuseppe Arnone, il comune ha rilasciato alla ditta Anna Zarbo una concessione edilizia che mette in gravissimo pericolo la zona altamente franosa di via Gioeni. Paradossi ambientali, così scrive il fatto Quotidiano, dopo che 50 anni fa ci fu la frana. Agrigento. Vabbè, invece, che pensate di questa iniziativa che Libero mette a pagina 16, che Massimo Gramellini, che da oggi scrive sul Corriere della Sera e scrive il suo caffè in prima pagina del Corriere della Sera ha commentato. Un'iniziativa di un ristoratore che ha deciso di porre un argine alla villania dilagante dei bambini che vengono lasciati scorrazzare come dei piccoli mufloni maleducati al ristorante. Ovviamente la colpa è sempre dei genitori. Ricordate che il pesce puzza sempre dalla testa. La colpa è sempre, solo, esclusivamente, direi al 99,95% dei genitori. Poi c'è uno 0,05% di possibilità in cui il bambino proprio è irrefrenabile, ma il 99,95% è colpa dei genitori. E allora c'è un ristoratore che invece ha trovato dei bambini educati e ha fatto un bello sconto ai genitori. Sconto bimbi educati, 13,05 euro su un conto di 262 euro per una comitiva. Il gestore di un locale premia i genitori che riescono a tenerli a bada. Dedica a questo appunto il caffè Massimo Gramellini. Prima pagina del Corriere, da oggi è passata al Corriere. Sconto di civiltà. Ha destato qualche scalpore la notizia che un ristoratore di Padova abbia applicato 13 euro di sconto bambini educati a una tavolata di clienti. Ne ha destato almeno altrettanto la scoperta che esisterebbero bambini in grado di stare a tavola per ore senza lanciare urla e posate sui commensali più vicini, senza trasformare i bagni del ristorante in un corso d'acqua navigabile. Pare che i silenziosi piccoli alieni non avessero neppure un computer per i videogiochi e riempissero il tempo tra una portata e l'altra colorando fogli di carta. Invece di chiamare un assistente sociale o almeno un hacker di Putin che li ammaestrasse, il ristoratore ha premiato i genitori con lo sconticino. Per restare ai fatti e ai fattacci di questi giorni, perché non praticare uno sconto sulle tasse agli studenti dell'Università di Bologna che entrano in biblioteca con la provocatoria intenzione di studiare anziché per spacciare droga? E perché non offrire un biglietto d'ingresso ridotto a turisti stranieri che si esimono dal lasciare tracce a volte indelebili del loro passaggio, come invece ha fatto la vigilessa francese che ha inciso il suo nome sui mattoni del Colosseo e che a casa sua si sarebbe multata senza pietà, peraltro. Resta la politica, ma lì tra gigli magici e raggi tragici è meglio non dare nulla per scontato. Questo Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzur della giornata, l'articolo da mani sul volante. Paolo Bracalini sul Giornale, cari terremotati, sarete esentati dal canone della RAI, sempre che dimostriate che la vostra TV si è rotta. Lo ha già scritto il Sole 24 Ore, oggi il Giornale torna su questa vicenda. Niente canone ai terremotati? Dimostrino che la TV è rotta. Si legge in Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui, per effetto dell'evento sismico, la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio TV, il canone non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e anno 17. Quindi, se avete una TV ma per effetto sismico si è rotta, bene, dimostratecelo, terremotati. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milani, il giornalista che fa impazzire mia mamma. Va bene, caro bambino, ok, d'accordo, è tutto a posto a casa, stai sereno. Allora, leggo dal Corriere della Sera, ma tutti i giornali dedicano le prime 7, 8, 10 pagine al congresso del PD. Io sono abbastanza basito, ma sono anche stanco di dirlo, evidentemente sono io che sono sbagliato, non faccio molto parte di questa categoria. Ritengo che non sia assolutamente un errore per il Partito Democratico discutere, anzi, benvengo le discussioni. Ritengo invece che sia un grave errore dedicare, e quindi e qui interrogo la categoria a cui appartengo, le prime 10 pagine dei giornali a questo tema. Magari ci vorrebbe un'inversione, adesso non è che voglio fare l'aziendalista, ma insomma aprire sul Sole come sono 24 ore sul fatto che l'Italia non riparta, arranca l'economia, e poi discutere in una paginetta e mezza massimo, anche delle discussioni del Partito Democratico. Ma vabbè, questo è pagina 2 del Corriere della Sera. Il PD sì al congresso tra le tensioni. Alla fine della direzione del PD si vota, passa a larga maggioranza con 107 sì e 12 contrari e 5 astenuti la mozione di Renzi. L'Assemblea nazionale si terrà sabato o domenica prossima e in quell'occasione si aprirà la stagione congressuale su cui aleggia lo spettro della scissione. E via di retroscena! Partiamo con quello di Maria Teresa Meli, pagina 2 del Corriere. La notizia è che il segretario del PD Renzi ha rinunciato il voto a giugno. È impossibile, non ce la si fa più ormai, ha detto ai suoi. Ma li ha rincuorati con Gentiloni, l'intesa è perfetta. E poi a settembre, ma darai ragazzi, cerchiamo di essere seri, la legge di stabilità va presentata il 15 ottobre, vorrà dire che quando e se sarò di nuovo segretario del PD avrò davanti a me 4 anni di tempo, prima o poi bisognerà votare, a meno di dichiarare guerra a San Marino, e quando sarà noi, il PD, saremo pronti. Poi le solite frasi, alla minoranza del PD li seppelliremo con le loro regole. E ancora vedrete che rimarrà dall'altra parte solo schierato Emiliano per cercare di toglierci voti al sud, ma vi segnalo che De Luca, nonostante tutto, sta con noi. Così Matteo Renzi, che notizia, secondo Maria Teresa Meli, non punta più a giugno come data delle elezioni. Altro retroscena, e saltiamo invece sulla stampa, anzi due retroscena, pagina 5. Renzi che esulta e punta sull'asse con Gentiloni, dice del ministro alla giustizia Andrea Orlando, il distinguo di Orlando si è esaurito col suo voto, se Andrea voleva lanciare un'opa ostile sulla minoranza non pare aver fatto breccia nel Partito Democratico. Altro retroscena a fianco a questo è dedicato invece agli anti-renziani, Bersani che guarda a D'Alema e dice di Renzi ha premuto il tasto dell'autodistruzione del PD. Il governatore pugliese Emiliano invece sostiene che il segretario Renzi ha messo in moto la macchina della soluzione finale. Insomma, tutti dicono c'è spazio enorme per un altro partito. E anche Andrea Orlando, che non ha votato, si è astenuto, non ha votato la mozione, rilascia due interviste, praticamente fotocopia, una a Repubblica, una alla Stampa. Il titolo è questo, di Repubblica, l'intervista di Tommaso Ciriaco. Così Renzi farà un frontale, il governo pagherà il prezzo. Io candidato? Ne riparleremo. E anche sulla Stampa, l'intervista di Francesca Schianchi, ha lo stesso titolo, pagina 3. Attento Matteo, andando avanti così rischi l'incidente frontale. Questo nel Partito Democratico. Sarà scissione oppure no? Telenovela puntata numero 4765 andata in onda ieri. Nei prossimi giorni, su questi schermi, la puntata 4766. Vedremo. In tutto questo Roma, anche Roma, è sulle prime pagine dei giornali, paginate, non per vicende che intercettano la volontà dei romani, e cioè vi passa l'autobus, non vi passa l'autobus, vi ritirano la monnezza, voi tra l'altro vi ricordate di metterla nei cassonetti invece di buttarla per strada, vi abbassano le tasse, vi alzano le tasse, vi riparano le buche, queste sono le domande, il traffico come va? Ecco, queste sono le domande con cui uno misura la qualità di un sindaco che deve poter lavorare ovviamente anche 4-5 anni. Ma sui giornali c'è tutta la vicenda giudiziaria. Intanto la disfida Raggi-Berdini, ormai siamo a una disfida personale, dopo che Berdini ieri, abbiamo letto sul Fatto Quotidiano, ha fatto una lunga lettera dicendo ricomponiamo la situazione, sono stato attaccato eccetera. È una Virginia Raggi che in una dichiarazione molto veloce, abbiamo sentito anche in audio, è molto infastidita, è molto infastidita perché ha detto la pazienza ha un limite, non capisco neanche dove trovi tutto questo tempo per scrivere lettere visto che c'è molto da lavorare, la pazienza è al limite. Tutti si chiedono ma perché allora non lo sostituisca? Beh, forse perché manca un sostituto al momento. Comunque, racconta il Corriere della Sera, la sindaca processa il lavoro di Berdini. La scelta sull'assessore verrà fatta dopo una due diligence, anzitutto sullo stadio. Novità tra qualche giorno, quindi abbiate pazienza cari romani, non per le buche, il traffico, gli autobus, ma almeno tra qualche giorno saprete se ci sarà ancora l'assessore Berdini oppure no. In tutto sulla vicenda giudiziaria torna sulla graticola Di Maio, perché si scopre che c'è un SMS, secondo tutti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero, un SMS di Di Maio che scriveva così a Raggi: Marra, colui che è finito in carcere, è un servitore dello Stato. Poi pubblicamente Di Maio invece l'aveva scaricato, aveva detto anche in TV io volevo cacciarlo. Allora si vuole vedere se nell'inchiesta se c'è una doppia, come dire, un doppio atteggiamento: pubblico, volevo cacciarlo, e in realtà privato con la Raggi difendi Marra perché è un servitore dello Stato. E infatti anche Il Messaggero spunta un caso Di Maio, aiutò Marra a restare. Di Maio garante di Marra è anche il titolo di Repubblica. Oh, veniamo poi alla notizia principale del giorno, quella che dovrebbe essere sulle prime pagine dei giornali, è sulla prima pagina del giornale del Sole 24 Ore, pagina 2 e 3, e invece appunto viene messa molto molto dopo la politica negli altri quotidiani. Il PIL, la Commissione Europea le previsioni dell'Unione Europea. La leggo io dal Sole 24 Ore, perché quel debosciato di Mauro Meazza ha la febbre, e quindi per un giorno grande, grande abbraccio e grande in bocca al lupo a Mauro Meazza, ovviamente. L'Unione Europea corregge al rialzo le stime del PIL nell'Eurozona, più 1,6% nel 2017, più 1,8% nel 2018, in crescita tutti i paesi, l'Italia è quella più lenta di tutti. È in crescita, ma una crescita più 0,9% nel 2017, più 1,1% nel 2018, con rischi legati a incertezza politica e banche. Il PIL del 2017 è fermo a 0,9%. Le banche e la politica sono i due elementi che frenano tutto. Lo racconta anche in un'intervista Jyrki Katainen, che è il vicepresidente dell'Unione Europea e l'ex premier finlandese, intervistato da Beda Romano, prima pagina del Sole 24 Ore. Nel pubblicare la sua analisi trimestrale sull'economia dell'Unione, la Commissione Europea ha fatto notare che per la prima volta in quasi 10 anni tutti i Paesi membri dovrebbero registrare crescita economica quest'anno. Eppure le prospettive sono più incerte del solito, si legge in questo rapporto. E in una conversazione col Sole 24 Ore, Jyrki Katainen sottolinea come l'incertezza politica dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, le prossime presidenziali francesi, il possibile voto anticipato in Italia stia pericolosamente pesando su che cosa? Sugli investimenti esteri. Vi è stata una ripresa degli investimenti, dice Katainen. Ma non so quanto sperato previsto. Nei fatti, quello degli investimenti è ancora un anello debole dell'economia europea. L'incertezza economica è stata superata, le riforme strutturali in molti paesi sono state adottate, la crisi esistenziale della zona euro appare almeno in parte risolta. La ragione della debolezza degli investimenti è a questo punto legata all'incertezza politica. Poi fa un'analisi paese per paese, ma l'incertezza frena anche in Italia. Questo dice il vicepresidente della Commissione europea al Sole 24 Ore. Va bene, il grido di battaglia allora oggi è mio? È mio? Ciao caro Mauro Meazza, è il momento del traffico! Dopo che hai sentito il giornale Milan, stong meglio mo Catan. Sono abbastanza d'accordo, ho capito il 12% circa di questo. Però va bene così, allora, caro ascoltatore. Allora, l'immigrazione e la gestione degli immigrati è un tema sempre molto caldo sui giornali, anche per gli italiani, perché anche l'ultima vicenda di Vitulano, piccolo comune del Sannio, in provincia di Benevento, in Campania, con il sindaco del Partito Democratico che ha eretto un muretto di terra, per la verità, per impedire l'arrivo di migranti, ha rilanciato questo tema. Oggi La Stampa va proprio a Vitulano con l'inviata Francesca Paci e racconta un po' il clima intanto in paese, con le persone stupite del fatto che il leader della Lega Salvini voglia venirli a trovare, visto che gli stranieri sono di casa da anni qui. Il problema è quanti accoglierne e come, che è il problema con il quale si confrontano tutti i sindaci italiani. C'è un colloquio in qualche modo di Francesco Grignetti con Domenico Manzioni, che è il sottosegretario all'interno che si occupa di questo tema. E i dati non sono certo incoraggianti. Partiamo dai numeri. Nel periodo che va dal 1 gennaio al 13 febbraio di quest'anno sono sbarcati 9.447 migranti. Ricordate, 9.447. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano solo 6.123. 2 anni fa erano solo 3.851. L'incremento in questi primi 2 mesi è clamoroso, quasi 50% in più, nonostante il mare sia inclemente. Ragiona su questi numeri il sottosegretario all'interno Domenico Manzione. Il piano di accoglienza è tarato sui numeri del 2016, ma i numeri vedono un trend in continuo aumento. Allora è evidente che c'è un problema. Già, il problema lo chiama così. Da ogni parte, dai sindaci come dai prefetti, si alza un grido di aiuto. Ogni tanto ci scappa qualche protesta clamorosa, come a Vitulano. Se però si arriva al muro contro muro, è una catastrofe. Dice per esempio il nuovo prefetto di Napoli, Carmela Pagano: il mio obiettivo è andare su modelli di accoglienza diffusa, senza coercizione, sulla base dell'adesione libera dei sindaci. Ma capite che è così, ognuno fa come ritiene più giusto, non c'è un piano strutturato. C'è il sottosegretario che dice: siamo tarati sui numeri dell'anno scorso, ma adesso sono aumentati del 50%. E quindi il sistema va in tilt e succedono vicende come quella del sindaco che dice: io qua già li ho, non mandatemene più, e se me ne mandate io faccio i muri di terra e vi blocco le strade. Cioè, come fai a dargli torto? Di fronte a una disorganizzazione rispondo con una resistenza attiva. Come si può fare altrimenti? In tutto questo, la cronaca segnala purtroppo una tragedia di cui raccontano tutti i giornali, almeno dedicando una pagina a questo sedicenne di Lavagna, in Liguria, che si è gettato dal balcone, si è suicidato perché gli hanno trovato 10 grammi di hashish in casa. Controllo a scuola, poi lui che dice: ho qualcos'altro a casa, arrivano i carabinieri. I genitori che non sapevano nulla, gli trovano questi 10 grammi, i genitori che fanno la ramanzina giustamente a questo ragazzo, che di colpo, come racconta Alessandro Fulloni sul Corriere della Sera, dà luogo a una scena terribile. Davanti alla mamma, al papà, a un finanziere, a un tratto, fermato dopo essere stato trovato in mattinata con un piccolo quantitativo di hashish, si alza dal divano, nessuno può immaginare nulla, va di là, raggiunge un'altra stanza, si avvicina al portafinestra e si butta, senza dire una parola, dal terzo piano. Gli trovano l'hashish a scuola, si uccide. E questa è una notizia che trovate ovunque, sui giornali. Mentre c'è quella che viene definita la battaglia del cognome, Elena Tebano a pagina 23 del Corriere della Sera, e riguarda la legge sulle unioni civili e un cortocircuito nei decreti che non prevedono più il cambio di dati sui documenti. Di che cosa si tratta? Beh, lo si può raccontare come fa il Corriere della Sera, attraverso il racconto di alcune storie, come quella di Serena Cavina Gambin, 32 anni, di Lecco. In autunno ha cambiato i documenti e ha dovuto avvisare tutti, banca, poste, ordine degli psicologi di cui fa parte, agenzia delle entrate. Lo stesso è successo a Grazia Vaccaro Zervasi, siciliana di Gela. Sono italiani che grazie alla legge Cirinna han visto riconosciute le loro unioni con persone dello stesso sesso e hanno assunto il cognome del partner. E fino a qui è quello che prevede la legge. Ora, pochi mesi dopo, devono tornare sui propri passi e rimettere sui documenti i cognomi da single. È tutta colpa, come spesso accade in Italia, della burocrazia, un pasticcio burocratico. Perché il cosiddetto ponte e decreto ponte, varato a luglio per permettere l'applicazione immediata della legge, prevedeva che l'assunzione del cognome comune incidesse sulla scheda anagrafica e quindi su documenti, codice fiscale. Mentre i decreti attuativi emanati dal governo a gennaio non contemplano questa variazione. E dunque devono tornare indietro, burocrazia, rifare il solito cognome. Il cognome, diciamo, da single, tra l'altro per le madri lesbiche la marcia indietro significa cambiare il cognome anche dei figli. Un casino legato alla burocrazia. Ah, ragazzi, in tutto questo io non so voi come la pensiate, ma io quando ho letto la notizia che Anna Lombardi ha messo a pagina 21 di Repubblica, ha firmato a pagina 21 di Repubblica, per cui esordisce debuttando sabato a New York la bambola trans, in nome del politically correct, si chiamerà Jazz, da Jazz Jennings, che oggi ha 16 anni e voleva una bambola che si ispirasse più alla sua sessualità e quindi fosse transgender. Eccola qua accontentata. Io veramente non lo so. Arriva la bambola trans. Bisogna essere politically correct. Non bisogna dire niente di maleducato. Debutterà sabato a New York. Pure la bambola trans. Va bene. Abbiamo visto anche questa, caro Peter Bescapè. Allora, è San Valentino e quindi Repubblica dedica una pagina a una ricercatrice, una microbiologa, Susan Erdman, che dice: baciarsi fa bene, lo scambio di microbi rinforza l'organismo e ci rende più sexy. Vieni qua, Lorenzo Nespoli. No, non a baciarmi, vieni qua a riprendere. Vieni qua, no, si stava già avvicinando alla bocca, diceva, va bene lo scambio di microbi. Cioè. Però su Repubblica, eccolo qua, lo facciamo vedere in diretta Facebook, sul mio profilo Facebook. I bacini dopo, quando abbiamo concluso la rassegna stampa. Poi c'è sul giornale la storia di San Valentino, c'è l'uomo che ascolta gratis le storie d'amore degli altri. Questa è una storia straordinaria. Si chiama Marco Mangia, ha 39 anni, fa il programmatore, insieme a Francesca Guzzo, 32 anni, psicologa, prendono una seggiolina, si siedono davanti alle persone e si fanno raccontare 15 minuti massimo le storie d'amore delle persone. Non registrano nulla, non chiedono soldi, girano per le città e si fanno raccontare le storie d'amore, così. Bella questa storia. E siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina dedicata da Libero all'intelligenza dell'asino. Vieni Peter, parlano di te anche oggi. L'intelligenza dell'asino, uomo Peter, animale intelligente, arguto, curioso, si sceglie pure gli amici, Peter, capisci? L'asino, ma chi se ne frega!